è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Silvio, che doni la luce, che non ti ritiri, e Alfano lo sa. Silvio, ne sei presidente, ma il PDL che fine farà? Ti porti appresso Carlo Giovanardi, che per la strada mai si bacerà, ma il Vespasiano utilizzerà. È questo il popolo della libertà. Tante le tessere ordinate ed un congresso si organizzerà. Pochi gli iscritti che lo sanno, è Pertini che ci dice chi è che vincerà. Era inevitabile, le prime parodie sull'inno del PDL, questa realizzata dal noto blog Dab. Caro Parenzo, dove ti trovi? Antonio Manganelli, capo della polizia, 621.000 euro. Leonardo Gallitelli, comandante generale dell'arma dei carabinieri, 462.000 euro. Nino Di Paolo, comandante generale guardia di finanza ora in pensione, 302.000 euro. Sei impazzito. Cesare Patrone, direttore generale corpo forestale dello Stato, 362.000 euro. Franco Ionta, capo dipartimento amministrazione penitenziaria, 543.000 euro. Ma sei impazzito? Che stai facendo? Che cosa stai elencando? Authority, i dirigenti statali, i dirigenti dello Stato che pigliano un sacco di quattrini, sì. Giuseppe Vegas, 387.000 euro. Vabbè, qui ci può stare, diciamo. Poi? Agicom, Corrado Calabrò, 475.000 euro. Un po' troppo, forse. Poi? Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli, capo Dipartimento Protezione Civile, 364.000 euro. Beh, questo è un incarico di responsabilità. Io non ho ancora capito com'è possibile, ieri ce lo ha detto Luttuak. Enti pubblici. Aspetta un attimo, com'è possibile? Sì, no, che è successo? Non ti fermi più. Istat che fa? Il capo dell'Istat quanto Enrico prende? Giovannini, Istat, presidente, 300.000 euro. Beh, insomma, adesso l'Istat. Antonio Mastrapasqua, certo, per lui è sempre Pasqua e si mangerà un sacco di colombe, 216.000 euro. Aspetta, però dichiara 1.200.000 di entrate. Dunque, il presidente dell'INPS, se non sbaglio, guadagna come stipendio 200.000 euro. Però... Sì? Avrà altri incarichi, altre presenze, altri gettoni, arriva fino a 1.200.000. Tra l'altro oggi in qualche intervista dice, io, siccome è un reddito relativo al 2007, dice, io quello di adesso non lo voglio dichiarare, preferisco non dichiararlo. Bah, è uno Antonio scandalo Manganelli. Comunque no, però fermati un attimo, Manganelli l'hai già detto, 600.000 euro, e questo è strano, è la cosa che mi ha stupito, che mi ha veramente fatto pensare, il capo della polizia 620.000, e perché il capo della polizia? Sentiamo subito Luttuak da ieri sera, Luttuak su Manganelli. Non esiste un capo di polizia in tutti gli Stati Uniti che prende 600.000 euro, 400.000 euro o 300.000 euro. Non è troppo, è straordinariamente troppo, perché il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americane, con 3 milioni di soldati e tutto quello, 2 milioni di soldati marinai e così via, lui prende qualcosa come 200.000 euro all'anno. Okay? Il capo dell'FBI prende di meno, naturalmente, credo 175.000 dollari, non euro, dollari. Avete capito? Poi dice che l'Italia va in bancarotta, e te credo, con gli stipendi degli alti dirigenti pubblici e con le relative pensioni che poi sono venute, con le relative pensioni, come lo scandalo di quel Malaschini, sottosegretario, il signor Malaschini, il quale prende 1.400 euro al giorno di pensione, 1.400 euro al giorno, perché in alcuni casi, mi raccontavano, si andava in pensione anche col 100%, addirittura col 103% dell'ultimo stipendio. Questa è la vera vergogna, altro che... Leonardo Gallitelli. No, però fermati un attimo, abbiamo anche un ospite. Fermati, ferma, bloccati un attimo. Due cose prima di presentarvi l'ospite. Innanzitutto la frase che sta facendo scalpore, quella di Lucia Annunziata ieri sera da Santoro. Vabbè. Che è quella sulla difesa di Celentano. Difenderei Celentano anche se... Quindi voglio dire, però Celentano ha il diritto di dire quello che vuole. E lo avrei difeso anche se avesse detto i gay sono da mandare al campo di sterminio. No, Vabbè, tra campo di sterminio e campo di sterminio, naturalmente non ha detto la stessa cosa, però ieri, come sapete, Ciarrapico da noi ha evocato i campi di sterminio. Ma si chiama paradosso quello della Sì, naturalmente non è la stessa cosa, però diciamo che Ciarrapico invece ci crede davvero, cioè la differenza è questa qui, sottolineiamola. No, ma non c'entra niente con quello che ha detto Ciarrapico, che c'entra? Ciarrapico ha detto questo intanto. Il fascismo li mandava al carbonio, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli al carbonio. Perché a carbonio stavano benissimo, scavavano. Va bene, va bene, abbiamo tante cose da dirvi, da farvi sentire. Il primo ospite della serata è con noi il segretario della destra, leader della destra, Francesco Storace. Eccoci qui, buonasera. Buonasera a voi, grazie per avermi. Oh, finalmente un moderato liberale. Bene. Ma che c'è? Ma no, lui non si è mai definito né moderato né liberale, per cui è inutile che subito attacchi su questa cosa. No, è moderato paragonato a Parenzo, diciamo. Come, scusi? Come? Non mi sono nemmeno mai paragonato a Parenzo. Beh, no, quello no, nemmeno Parenzo a lei, che è la stessa cosa. Senta, Storace, voglio capire una cosa, ma non ha trovato anche lei scandaloso il fatto che il capo della polizia o anche altri funzionari prendano degli stipendi così spropositati? Io sinceramente sul capo della polizia, per carità, con tutto il rispetto al dottor Manganelli, non ho alcuna voglia di essere arrestato per aver espresso un giudizio sul capo della polizia e sul stipendio. Cioè, si rischia questo, dice lei? No, no, non c'è mai, vorrei vivere tranquillo la mia vita, diciamo. Vabbè, ho capito, non è che non si può anch'io, noi da ieri, dice, noi rischiamo, siccome è da ieri che stiamo picchiando un po' sodo su questa cosa, rischiamo, dice lei. No, no, io perché faccio i fatti miei. Se fai i fatti suoi. Che insomma sono cose incredibili, no? Ma insomma è una cosa pazzesca. Ma davvero a bocca aperta. Ma com'è possibile però? Ma io non riesco a capire se è davvero uno stipendio deciso da chi, perché lì sono stipendi che dovrebbero essere sempre uguali. Io mi aspettavo il capo. Io sono sostenitore della tesi che se abbassassimo gli stipendi, diciamo, di quelli che stanno molto meglio nel pubblico, forse la gente farebbe sacrifici più volentieri. Ho presentato in regione una proposta di legge per dimezzare gli stipendi di noi consigli regionali, tra regionali, parlamentari. Io credo che con 5.000 euro al mese si potrebbe campare decentemente senza far mancare nulla alla famiglia. Diciamo, facciamo una sospensione triennale degli emolumenti aggiuntivi. Però se c'è la crisi bisogna che tutti... Tra l'altro voglio dire che nelle dichiarazioni dei redditi che sono state diffuse in queste ore da alcuni alti funzionari, mancano gli incarichi aggiuntivi, cioè molti dichiarano il reddito percepito, il primo reddito, poi però ci sono una serie di incarichi aggiuntivi che secondo me poi alla fine sono il vero scandalo. Per esempio, io con tutto il rispetto anche qua di Mastrapasqua, il capo dell'INPS, non riesco a capire come si possa arrivare perché il presidente dell'INPS aggiunga i soldi dello stipendio a altri incarichi. Il presidente dell'INPS dovrebbe fare il presidente dell'INPS e basta, non dovrebbe avere i gettoni. Bah, comunque, guarda, io sono per la separazione delle carriere, non solo in magistratura. Credo che se uno fa una cosa deve fare solo quella, punto. Ma chi ne decide questi stipendi? Vabbè, questa è una cosa complessa. Registrare. Senta, ma dato che siamo in tema, come al solito, ci dica anche lei, Parenzo, no? Una bella frase contro i gay oppure a favore. Ci stupisco. Oppure ci stupisco. Una bella cosa. Adoro i gay. Adoro. Parenzo è il più bello tra loro. non è affatto omosessuale, Parenzo. Così gli hanno detto. Ma com'è che tutti. Come le hanno detto così? Ma è una cosa, una cosa gravissima. Sì, no, abbiamo detto che si intrufola. Ti piacerebbe, Ci devo pensare, perché dopo i 50 anni uno qualche esperienza diversa dovrebbe viverla. Sì, anche lei la vorrebbe vivere. Vabbè, comunque mi sembra di capire invece che Berlusconi, su cui lei puntava molto prima del governo Monti, non ha più voglia di combattere, ormai si è un po'. Va a braccetto con Monti, si è quasi sposato con Monti, una sorta di coppia di fatto, ce lo vuole candidare anche per il dopo. Voi siete fuori gioco ormai, No, non è fuori gioco, anzi, io credo che la nostra manifestazione del 3 marzo verrà tanta più gente proprio perché c'è disorientamento, c'è gente che si sente anche tradita. Lei dice, C'è stato un sindaco in provincia di Roma, del PDL, che mi ha chiesto se poteva organizzare un pullman pure lui e portare le bandiere del suo partito, non si mancherebbe. Non è così scontato il consenso degli italiani a questa grande ammucchiata. Però è un tradimento quello di Berlusconi, lei ha parlato esplicitamente di tradimento, come lo potremmo paragonare? Che ne so, a tradimenti famosi? Mi sento deluso, cioè non è che voglio usare parole grosse, però credo che insomma quel popolo che ha creduto per 20 anni, questo leader, oggi vedremo a braccetto con Bersani, rimanga un po' stupefatto. Io l'ho detto l'altro giorno, quando ti vedo senza voglia di combattere, per se pensi che la gente si abbia abbandonato. Nel 50% che dei sondaggi rifiuta di rispondere o dice che non vanno a votare, secondo me larga parte di, cioè, larga parte del consenso al centrodestra. Se lui si rimette in movimento, può darsi che riporta a casa elettori che non ne vogliono più sapere. Bah, secondo me, Stonaccio, la situazione è tale per cui l'unico obiettivo, l'unica possibilità è quella di appoggiare Monti. Tra l'altro, Parenzo, tu puoi esultare in queste ore, perché sembra un'Italia che cambia in tutti i sensi. Allora, il divorzio breve, l'ICI alla Chiesa adesso è passato, è stato approvato un emendamento del governo in cui tutte le attività della Chiesa che hanno carattere commerciale dovranno pagare l'ICI, e sembra improvvisamente un'Italia pannellizzata all'improvviso. 18:46, traffico, torniamo subito. Ogni popolo va fiero di servire una bandiera, siamo figli dell'Italia e serviamo. Parenzo, serviamo il tricolore, questo è l'inno della destra, ma vuoi mettere caro Parenzo, questo inno con quello che abbiamo ascoltato nei giorni scorsi, per carità, tutto il rispetto anche lì, con il nuovo inno del PDL, facciamo ascoltare, abbiamo avuto in esclusiva dagli autori qualche piccola strofa, la metto sulla base di Storace non si offenderà, dell'inno della destra, sentiamo l'inizio proprio del nuovo inno del PDL cantato in esclusiva per noi dagli autori. Gente che ama la luce, che non prova invidia, che odiare non sa. Gente che non ha rancore, che ha come valore la sua libertà. Che porta in alto una bandiera nuova, che non si arrende e non si arrenderà. Gente che ama la luce, che non prova invidia. Ma lì, Storace, c'è tutta un'altra musicalità. Ricorda un po' i tempi andati, questo inno, il suo inno, La luce pure là. No, diciamo, però è un po' più orecchiabile Faccetta Nera, secondo me. Come è più orecchiabile Faccetta Nera? Beh, diciamo, si canticchia meglio, questa è un po'. Cioè un lei, po' lei la canticchia modello, ancora? Diciamo, lei la canticchia ancora ogni tanto faccio. La doccia magari. Insomma, può capitare, magari ho saputo che tantissimi italiani la canticchiano, non lo sapevo. Purtroppo. Beh, è stato fatto un sondaggio, diciamo. Ma quando mai? Quando l'ha visto? Questo sondaggio? 76,5% degli italiani la conosce. Cioè, fosse per lei, sa, qui siamo in una situazione per cui un diplomatico italiano canta una canzone che si riferisce ai tempi andati, la Repubblica Sociale, il signor Battani, e viene sospeso, diciamo, dall'attività di diplomatico. Che ne pensa lei di questa vicenda? Io penso che sia una vergogna. Una vergogna, come? Addirittura. Perché guardi, c'è stato, però, molto di più, un giudice come Ingroia che va al congresso dei comunisti italiani. A dire le cose che ha detto, e a lui praticamente succede ben poco, perché continua a giudicare o a indagare, pur essendo chiaramente schierato. Ora Battani è diplomatico, viene punito perché nel tempo libero ha cantato una canzone, ma questo è veramente da regime. Ma guardi che Ingroia, come da regime? Guardi Storaci che si sbaglia. Ingroia ha detto che è un partigiano della Costituzione. No, Ingroia è andato però al congresso, ma dice Storaci del Partito dei Comunisti. Allora, io su questa vicenda, lo sai, io e te la pensiamo in maniera diversa, Parenzo, perché io ma penso. Storaci può invitare Ingroia al suo congresso a parlare di. Ma no, non ci mettono niente. Guardi, io il congresso è fatto per discutere se dibattiti su questioni politiche, penso che un magistrato tutto debba fare tranne che parlare di politica. Cioè, secondo lei dovevano sospendere pure, come hanno sospeso Battani, dovevano sospendere pure. Borsellino andava alle cose del MIS, Storace, dovrebbe ricordarselo. Ma i congressi di partito credo di averli fatti tutti, io non ho mai visto il giudice ai congressi del MIS. Comunque lei dice. Ha potuto partecipare a dei dibattiti organizzati in occasione di feste tricolori, ma non ai congressi. Cerchiamo di non di paralizzare tutto, perché veramente diventa difficile sostenere la tesi che un giudice può andare al congresso di partito a dire quello che pensa, insomma. Ma secondo lei avrebbero dovuto dunque, per coerenza, sospendere anche Ingroia o comunque avviare qualche procedimento disciplinare? Diciamo che è molto più più grave quello che ha fatto Ingroia, secondo me, rispetto alle canzoni cantate da Vattani. Tra l'altro devo aggiungere anche che la vicenda di Vattani, è vero che poi c'è stato questo video, se non fosse stato per il video diffuso, era arcinota da 20 anni, perché che Vattani partecipasse ad un gruppo cosiddetto nazi rock. Ma è un rappresentante dello Stato. Ho capito, ma io sto dicendo semplicemente che non era una vicenda, come dire, che è saltata fuori adesso, no, cioè al ministero, chiunque lo sapeva, cioè chiunque è addentro a queste cose, sapeva che Vattani... Ma ragioniamo con Storace, c'è una differenza, uno dice difendo la Costituzione, l'altro canta inni nazisti, ma come si fa a non vedere la differenza? Su, io credo che stiamo parlando di una manifestazione artistica, culturale, cantando. A me non interessa mettere la museruola all'arte, alla cultura, alla canzone. Ma quelle canzoni, in quelle canzoni non ci trova niente di male, in quelle canzoni, niente di particolarmente... Non lo sentite, io so che c'è un diplomario che viene messo proprio per aver cantato delle canzoni, e penso che sia... sia qualcosa che non va bene. Senta, se Giovanardi passava, a sospendere anche me per aver detto questa opinione. No, ma io sono, ma guardi, guardi che su questo sono d'accordo con lei, per cui non è che avere un po' il senso del limite, altrimenti qui davvero non si può né parlare, cantare, ma non si può fare più nulla. Ma cosa si può fare più nulla? Ma su, ma non è che Vattani cantava Candy Candy, cantava una canzone nazista, ma di che parliamo? Cioè, c'è una differenza, no? Ah, quindi il problema è che cosa canta. Beh, anche ma stiamo scherzando. Concetto di libertà, dove l'avete ficcato? No, scusi, Storaggio, cioè, dato c'è la legge Mancino, diciamo che è stato un po' inopportuno, c'è stato. Disposizioni transitorie finali sul partito. Se c'è fascista. La legge Mancino, arrestatelo, ma vi pare normale pensare di arrestare qualcuno perché canta la canzone? No, ma c'è l'apologia di fascismo. Ma la legge Mancino non c'entra niente, c'è Parenzo. L'apologia di fascismo. No, ma sto dicendo a Parenzo. Come al solito, dicendo c'è la legge Mancino, allora no, una legge di arrestare. Quella non c'entra niente, Parenzo. No, è l'apologia di fascismo. Ma quale apologia di fascismo? L'avrebbero L'avrebbero arrestato casomai, o comunque avrebbero proceduto penalmente. La carriera diplomatica con questa storia è una cosa che solo in Italia può succedere. Ma cantava Candy Candy? Cantava Candy Candy o l'inno alla Wehrmacht o a qualche canzoncina nazista, parafascista. Senta, comunque, Storace, passando ad altro, il paese pannellizzato con l'ICI che la Chiesa paga e il divorzio breve, che ne pensa? Non è male questa, hanno molto il paese, non so se gli italiani quando votarono nel 2008 volevano questo paese, perché qui abbiamo un governo che non ha votato nessuno, eletto al suo posto da deputati e senatori che non abbiamo nemmeno scelto, e alla fine succede tutto questo, cioè abbiamo le tasse più alte di prima. Ma non mi dica che non vuole il divorzio breve, il divorzio breve è una norma civile, cioè normale o no? No, guardi, io credo che banalizzare il matrimonio non rende più civile un paese, io credo che il matrimonio sia una conquista, e non credo che sia qualcosa da buttare a mare. Io sono felicemente sposato tanti anni e non credo che il matrimonio breve, il divorzio breve sia una funzione, almeno fatto con questa fretta. Io ho letto su nessun giornale che c'era questa urgenza il divorzio breve. Gli hanno spiegato che l'urgenza della situazione la riguardava l'economia e che per questo avevano scomodato i tecnici da bocconi. Non pensavo che dovessero fare anche queste cose. Ma infatti mica l'ha proposto il governo, credo che sia una norma. Però insomma, questo è il periodo in cui alla maggioranza uscita dalle urne ci è dato praticamente di parlare, quasi come fosse Vattani. Senta, no, però le voglio chiedere un'altra cosa, perché abbiamo un minuto. La cosa è questa, ma lei è contro il governo, farà questa manifestazione contro il governo delle banche come slogan, diciamo. Poi ho letto che ogni tanto se ne esce contro il signoraggio bancario. Parenzo, non ti ricorda qualcuno? Lei è quasi sulla stessa posizione, non vorrei offenderla, ma quasi sulla stessa posizione di Scilipoti. Beh, sono le stesse battaglie. No. Diciamo che ne abbiamo fatte di migliori. Di che cosa? Battaglia, insomma, perché io sempre rispetto per le persone, non siamo esattamente sulla stessa barricata. Ci sono stati presidenti americani che hanno contrastato il signoraggio bancario, l'ho scoperto più volte. Ma ha capito, ha saputo di questo fallimento della immobiliare della famiglia Tulliani? Ha letto? Sì, l'ho letto sulle agenzie di ieri, insomma, me ne frega tanto e poco. Nulla. Assolutamente nulla. Ma Fini dov'è finito? Dov'è finito? Fini dov'è finito? Alto là, tirerete fuori un titolo dalla mia bocca. Grazie, a presto. Prego, arrivederci. Pubblicità. Siamo qui in diretta su Radio 24 800 24 00 24 e naturalmente tra qualche istante anche su TGcom 24. Eccoci qui, David, ci sei? Bene, sì, ti sento forte e chiaro. Un saluto a te, a tutti gli amici di TGcom 24. Vabbè, non c'è bisogno che fai il solito ritornello ogni sera. Ma chi è quello lì che vedo? Io non vedo nessuno. Non vedo chi è nessuno. Quel tizio che hai chi messo c'è lì? Qua intorno? No, non c'è nessuno qua. Chi è quel mostro che hai messo lì? Non lo so, non c'è nessuno, non vedo nessuno io. Hai qua messo un tizio lì, ma al mio posto? Ci sono delle persone che passano per fare la disinfestazione ogni tanto, non so, forse sono entrate, ma non mi posso voltare. Ma vergogna, ti metti anche quel signore con quella non maschera. Mi posso voltare adesso, è inutile che me lo chiedi, non mi posso ma voltare. Chi è? Ma poi non interessa chi è in giro con le macchine, che sta, ci sta chiamando, ci sta sentendo, ci sono delle persone che dicono fateci un saluto perché sono un'ora che aspettiamo nelle varie tangenziali di tutta Italia, a Milano, a Roma, a Napoli, a Palermo, ma gente in fila, in coda, non lo so chi è, qua? Non so, ma c'è gente che va in giro normalmente per la radio a fare la disinfestazione, saranno quelli, non lo so. È impazzito agli suoi cruciali completamente. Sentiamo intanto i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Liberalizzazione, emendamento per l'ICI sugli immobili della Chiesa ad uso commerciale. I primi 100 giorni di Monti, arriva la manovra fiscale. L'Ocse all'Italia, meno tutele al posto fisso e privatizzare TV, trasporti e energia. Riforma del lavoro, Bersani più ottimista. Non vi vogliamo, restate a casa, così la Fiat ai tre operai di Melfi reintegrati dal giudice che ha accolto il ricorso della FIOM. Uno dei tanti processi inventati contro di me, Berlusconi interviene alla vigilia della sentenza sul caso Mills, sul filo della prescrizione. I nostri manager pubblici più pagati d'Europa, il confronto tra i loro redditi resi noti ieri con quelli dei colleghi europei. Dopo quasi tre mesi è sceso dalla torre dalla stazione di Milano il simbolo della protesta degli 800 lavoratori dei vagoni letto licenziati. L'Afghanistan insorge contro l'Occidente per il rogo del Corano nella base americana di Bagram, ma almeno 12 morti nelle manifestazioni di protesta. Bene, siamo di nuovo in diretta. È una cosa pazzesca. Che è successo? No, non lo so. Ma io per me è tutto normale, che succede? Non mi posso voltare, è inutile che mi chiedi. Non so, c'è una persona qui, ho visto prima, sta spruzzando delle cose, non riesco a capire. Sta spruzzando un disinfettante. Sarà non so. Un uomo di Befera, sicuro. Ma che uomo di Befera? Che c'entra Befera? Su, fammi dare alcune notizie agli ascoltatori. Innanzitutto facciamo risentire Alfano, non è che sia entusiasmante il signor Alfano, eh. Ieri voterei Berlusconi al Colle, ma non lo candido. Che vuol dire? Non si capisce. Sentiamo. Ma può fare anche il Presidente della Repubblica? Io, se fossi chiamato dal prossimo Parlamento a scegliere, lo voterei, ma siccome sono una persona responsabile, oggi non lo candido di certo. Per non bruciarlo, adesso l'ho capito, sì. Monti non si candiderà nel 2013, dice sempre Alfano. Monti è senatore a vita, ma lei ritiene che un senatore a vita si candiderà alle prossime politiche? Io penso di no. Vabbè, questo è Alfano. Freccero, ieri sera, Blair e Clinton, due coglioni totali, proprio così ha detto Freccero. Ieri da Santoro, se non sbaglio, giusto? Da me, Parenzo, da mai. Tu che senti tutto, che segui tutte queste cose. Io, da Michieluzzo, io certo. Le vedo il giorno dopo, tu le segui in diretta, ti fai una testa così, ti fai due palle così. Ci hanno fatto credere che Blair e Clinton fossero la soluzione magica dei nostri problemi. Due coglioni totali. Chiusa parentesi. Allora, cioè, vi dico. Cosa dire la protesta dell'ambasciata inglese? Che devo dire? Che devo dire? Ecco, lo dico con tono. Sì, Clinton ha fatto. Lasciamo perdere. Anche di quella americana, che è pure peggio, Ecco. Adesso faccio una protesta pazzesca, stanno succedendo delle cose pazzesche dentro questo studio, cioè, mi hanno mandato uno per fare la disinfestazione senza dirmi niente, c'è un signore con una maschera, è entrato all'improvviso da qua, è una cosa pazzesca. Una cosa ma lo vive. Vabbè, Lutwak ieri sera, Lutwak che è forte. Sarà un uomo di Mario Giordano. Lutwak, i sindacati proteggono i vecchiacci in pensione, questa è bella e mi è piaciuta moltissimo. Lutwak. In Italia, gli operai italiani, spesso super produttivi, hanno paghe basse, quindi la forza dei sindacati è forse quella di proteggere i vecchiacci in pensione e così via, ma gli operai non li proteggono, fanno molto rumore, ma evidentemente non proteggono la paga degli operai in un paese dove tutti gli altri sono pagatissimi. Beh, ha ragione da vendere il signor Luttwak, ha ragione da vendere, caro Parenzo. Vecchiacci in pensione. Beh, dai. Sì, ha ragione. I sindacati proteggono soprattutto la gente in pensione. Lascia perdere i vecchiacci, vecchiacci, questa è la definizione di Luttwak, ma Luttwak usa i termini. Caro. E come, chi è? Ah, Luttwak. Senti, caro. Come Luttwak? Che fai? È ancora in diretta Luttwak? No, ogni tanto appare. Ogni tanto si sente Luttwak. Si palesa la... Senti, caro. Com'è che... Senti, caro. È lui sempre, Sugli stipendi di Manganelli, questo è il numero uno, Luttwak secondo me è il numero uno degli ultimi giorni, devo dirti la verità, è apparso ieri sera verso le 20.30, 20.45, hanno potuto sentirlo e vederlo anche... Vederlo no, ma insomma i telespettatori di TGCOM24, oltre che naturalmente gli ascoltatori della radio, ed è stata una cosa grandiosa. L'intervento soprattutto sullo stipendio del capo della polizia e sugli stipendi degli alti funzionari, degli alti burocrati italiani. Boiardi di Stato. Non esiste un capo di polizia in tutti gli Stati Uniti che prende 600.000 euro, 400.000 euro o 300.000 euro. Non è troppo, è straordinariamente troppo, perché il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americane, con 3 milioni di soldati e tutto quello, 2 milioni di soldati e marinai e così via, lui prende qualcosa come 200.000 euro all'anno, ok? Il capo dell'FBI prende di meno, naturalmente, prendo 175.000 dollari, non euro, dollari. Senti, caro. Questo l'hai mandato tu a fare casino, questo signore qua dietro col coso, adesso mi incazzo come una bestia, cioè non, l'hai mandato tu a fare casino, cioè non c'è nessun motivo per cui stia qua questo signore. L'ho mandato lì per controllarti. Una cosa da pazzi. È un emissario del signor Giordano. Va bene, Celentano ha scoperto che la RAI è fatta di sotterfugi e di politica, è fatta il direttore generale controllato dalla politica, la grande scoperta di Celentano. Beh, l'acqua calda. Ma che dirlo? Ma se lo dicono le persone assennate, lo dicono da 50 anni, ma che stai dicendo? Su, però vedi, lo la grande scoperta di Celentano, no. La RAI occupata dai partiti. Ma lo dicono soltanto i radicali. Ma che radicali? Lo dicono tutte le persone che hanno un minimo di cervello, ma lo dicono anche quelli che difendono questa RAI, c'è gente che difende la RAI dicendo è giusto che i partiti abbiano voce in capitolo perché è pubblica, eccetera, eccetera. E allora di che si scandalizza? Ma io mi scandalizzo della scoperta dell'acqua calda. No, non della... tu, ma allora di che si scandalizzano i burocrati, i dirigenti della RAI? Celentano, con la RAI fa di sotterfugi. Credo che l'errore stia proprio nel meccanismo di conduzione della RAI. Finché i partiti continueranno a litigarsela, la RAI sarà sempre preda di sotterfugi, di intrighi e sospetti a danno poi del paese. È difficile non pensare che lo stesso direttore generale non sia sottoposto a pressione da parte dei partiti, e non soltanto della destra, ma anche della sinistra. Beh, ma che cosa strana, che cosa curiosa, che cosa bizzarra scopre Celentano, il quale scopre anche un'altra cosa, anzi no, dice un'altra cosa. Gli ho chiesto di darmi di meno soldi, altrimenti, ma mi hanno risposto che non potevano, altrimenti mi arrestavano. Bah. E poi naturalmente non poteva mancare la colossale stronzata sbandierata da qualche esponente di AN e del PD, secondo cui io farei la beneficenza con i soldi dei contribuenti. Qui io vorrei sapere quanto ci hanno messo a partorire un concetto così rudimentale. Che colpa ne ho io se mi è capitato di essere uno degli uomini più pagati d'Europa? Io ho provato a dirgli datemi di meno e loro mi hanno detto no, non è possibile perché tu hai una quotazione di mercato e se noi ti diamo di meno poi ci arrestano. Ma questo è da verificare, naturalmente sarebbe incredibile se... Ma è ironico. Sì, no, certo. Spero. Certo. Bene, no, non lo so perché con la RAI non si sa mai. 800 24 00 24, se n'è andato il signore mascherato, voi che siete alla radio non lo potete guardare, ma c'era un signore che mi ha perseguitato per un quarto d'ora. Beh, con tanto di maschera. Beh, insomma, era un po', devo dire, colpito da questa presenza. Ti assomigliava un po' però. A chi? Chi assomigliava? No, ti assomigliava. A te? No, a me no. Giuseppe da Como, buonasera. Buonasera Cruciani. Vada. Senta, io volevo intervenire perché ultimamente in radio, sì, ma non solo nella sua trasmissione, su diverse in radio, tipo anche il Barisonno prima. Allora? Parlava. Che succede? State facendo terrorismo, in pratica nel senso che state invogliando la gente alla rivolta, all'evasione fiscale. Ma veramente io faccio di tutto tranne che invitare la gente a evadere le tasse, Giuseppe? Non te soltanto, cioè le persone che intervengono, dice lei? No, soprattutto voi. Ma perché, scusi, mi spieghi questa cosa, perché? Perché, cioè, è da 30 anni che lo Stato ruba tramite le tasse che vengono pagate dai cittadini, dai stessi cittadini che pagano le tasse, sì, per invogliare, cioè per accrescere gli stipendi dei manager pubblici. Ah, ho capito, lei dice siccome visti gli stipendi dei manager pubblici eccetera viene voglia di evadere le tasse, in questo senso? Sì, sì. Giuseppe, sì, le do ragione al 100%. Fabrizio da Pistoia, anzi no, Simone da Lecco, no, ma ha ragione, ha ragione. Visti gli stipendi, ma no, ma lascia perdere, no, ma non lo dice in senso negativo. Dice una cosa: visto quello che guadagnano alcuni manager pubblici, gli stipendi enormi, spropositati, assurdi di alcuni, non tutti i manager pubblici, uno gli viene voglia di dire: ma ecco, ecco dove vanno a finire i miei quattrini. Ecco, ma no, è giusto, è corretto, perché è lo Stato idrovora che mangia tutto. Simone da Lecco, fai silenzio un attimo, Simone da Lecco. Pronto, io volevo dire che Parenzo dovrebbe smettere di generalizzare e raccontare falsità. Vattani non sta cantando nessun inno. Beh, insomma, è una canzone che ha qualche nostalgia, fascistoide ce l'ha, Faccia semplice, una canzone che è venduta anche in molte librerie, in molti. No, ma infatti secondo me, guardi, Simone, però non mi dica che non è una canzone, come dire, che ha delle nostalgie filofasciste. È una canzone di un certo ambiente, però. Ecco, appunto, no, quello diamolo per assodato, che poi possa fare quello che vuole, anche secondo me, però c'è la borsa, tra un attimo. La forza dei sindacati è forse quella di proteggere i vecchiacci in pensione. Beh, mi piace moltissimo questa frase, mi piace moltissimo. Non è necessario mandarla, perché non gliela mandi anche alla CGL l'audio? Mandagli l'audio alla signora Camusso. Certo che glielo mando, glielo mando subito. Ma chi è? Ancora Lutwak? Senti caro. Hai capito? Senti caro. Intanto siamo di nuovo in diretta su Radio 24 e anche su TGCom24 800 24 00 24. Chi conduce l'edizione di questa sera di TGCom24? Non lo so, io su Monte, ad esempio. No, ma sono concentrato. Non mi sembra. Cavo, ad esempio. No, mi sembra di no. No, vabbè. Qui è entrato di nuovo sto tizio qua. Io veramente devo fare una protesta ufficiale. Sai, sei tu che si è inventato tutta questa roba. Sei tu che ti sei inventato tutta sta roba. Ma chi è quel signore che parla? Mandiamo la frase dell'annunziata. Adesso devo risolvere sta questione. Va. La frase dell'annunziata sui gay, sulla difesa di Celentano, anche se. Sentiamo. Quindi voglio dire, però Celentano ha il diritto di dire quello che vuole. E lo avrei difeso anche se avesse detto i gay sono da mandare al campo di sterminio. Bene, 800 24 00. Che è successo? Dicasi. No, questa dell'annunziata, dicasi paradosso. Sì, se lo avesse usato qualcun altro no. avresti fatto l'inferno, diciamo no, la verità. Avresti fatto l'inferno. Ma non ho la mortadella sopra gli occhi. Avresti fatto l'inferno, su, no, dai. No, perché un conto è se lo dice il signor Ciarrapico, come ha fatto ieri da noi. Sì, che non ha detto la stessa cosa, peraltro. Non c'era nessuna battuta. Nel caso della Lucia Annunziata, che difende la libertà di un artista di dire quello che gli pare, è evidente uso di paradosso. Grazie a voi studio. Come mai non ti indigni sugli stipendi pubblici, sulle come pensioni, no? Sulle mega pensioni del signor Malaschini o di altri? Come, no? Come mai come non ti indigni? No? Non ti indigni, eh? Mi come mai? Moltissimo, anzi, ripetiamo: Antonio Manganelli, capo della polizia, 621.000 euro. Leonardo Gallitelli, comandante generale dell'arma dei carabinieri, 462.000 euro. Nino Di Paolo, comandante generale guardia di finanza, ora in pensione, 302.000 euro. Cesare Patrone, direttore generale del Corpo Forestale dello Stato, 362.000 euro. Franco Ionta, capo dipartimento amministrazione penitenziaria, 543.000 euro. Bene, fermati, se no sembri veramente una macchinetta, cioè non si capisce Giuseppe nulla. Vegas, ho capito, alcuni sono giustificabili, il lavoro di Vegas alla Consob non. Agicom, Corrado Calabro. Beh, lì si può discutere, perché anche la Agicom. 475.000 euro. 475 è un po' troppo. Antonio Mastra Pasqua, 216.000 euro. Che però dichiara 1.200.000 nel 2007, adesso non vuole dichiarare. No, Mauro Nori, direttore generale sempre dell'INPS, 377.000 euro. Massimo Pianese, direttore generale, 322. Istat, Enrico Giovannini, 300.000 euro. Ripeto, va bene. Fermati lì, che c'è un ospite. Michele Emiliano, sindaco di Bari, ben ritrovato alla Zanzara, come sta? Buonasera. E allora? Buonasera, come va? Bene, lei? Più a sinistra di Emiliano c'è soltanto, non lo so, forse Ferrero ormai. Ormai c'è Ferrero. Ormai ma più... Ferrero, quello delle cioccolate. No, Ferrero, no. Ferrero quello di Rifondazione Carolina. No, la cioccolata è di sinistra, ve lo comunico. Ah, la cioccolata tutte di sinistra. Tutte le cose buone sono di sinistra. A lei piace molto la cioccolata, a vedere le sue le dimensioni. Mentre come il Fernet Branca è di destra, perché è amaro. Scusi un attimo, Emiliano, ma lei quanto pesa, per curiosità? Fatti miei. Ma come fatti suoi? Adesso non è che si parecchio. Fa. Non è che... L'ho già detto una volta, quindi o ve le segnate certe cose importanti, no, o non me le ricordo. Me le chiedete tutte le volte. Non me le ricordo più. Magari sta facendo una cura. Sa, va di moda tra i politici fare la cura dimagrante. Anche Bondi la sta facendo. No, io ho delle difficoltà con le diete. La definizione di dieta è breve periodo di fame che prolude ad un ulteriore aumento di peso. Senta, io ho letto delle cose incredibili. Emiliano. Abbiamo perso Emiliano. Lei è un, no, invece no, l'abbiamo, è un vulcano pazzesco di idee, di iniziative, di adesso si è inventato, pensa te Parezzo, tu non avrai sicuramente letto. Ma perché? No, perché non avrai letto, perché tu non leggi mai queste cose, sì. Ti occupi di piccole, di quisquilie, si è inventato di una cosa interessante, di fare una lista civica nazionale, che è un po' come il partito dei sindaci, che non andò benissimo in realtà, lista civica nazionale per poi fare un'alleanza con chissà chi, pure col Terzo Polo, chissà se è strano al Partito Democratico, chi vorrebbe in questa lista civica nazionale, Emiliano? Beh, c'è un sacco di bella gente in Italia, per esempio voi due sareste perfetti nella lista civica nazionale, perché siete persone che state destrutturando e trasformando in una Babele la politica italiana. No, ma non noi. Esattamente, certo, guardate che siete due fuori classe. Scusi Emiliano, ma lei lo sa che può parlare, siccome è in diretta anche su TG Com 24, può anche parlare malissimo di Berlusconi, non c'è problema. Sì, può fare quello che vuole. Cioè non si trattenga. Berlusconi, ormai Berlusconi, tanto non si può più parlare né male né bene. Tanto. Ho fatto una battuta a Cicchito l'altra sera che tentava di difendere ancora Berlusconi. Sì. E io ho detto, guardi Cicchito, che questi argomenti sono per la storia, siamo noi di Giovanni Minoli, non le trasmissioni politiche non si devono occupare più di questo passato ormai trascorso. Cicchito è un po' come quei giapponesi, no? Non le ricordo, ma quei giapponesi che pensano ancora che ci sia la guerra lì dentro. Perché parli male sempre di Cicchito? No, io voglio molto bene a Cicchito, ho fatto un dibattito ieri con lui. Però molti dicono quelli della Prima Repubblica erano un'altra classe. Rispetto a chi le dice? Rispetto a noi. Rispetto a voi. Beh, lei nella Prima Repubblica faceva il magistrato, faceva. No, io nella Prima Repubblica facevo lo studente. Ma la lista civica nazionale, ma che vuole fare? Ma che serve questa lista civica? L'idea è sostanzialmente questa. Il PD, il SEL e i DV hanno una loro energia elettorale che probabilmente li potrebbe anche portare a vincere le elezioni, ma è molto difficile che questi partiti conservino nel travagliato periodo che viviamo quel consenso sufficiente anche durante il periodo di governo che serve a cambiare le cose. Lei sta dicendo, sono talmente messi male a livello di consensi di... Però l'ho detto benissimo. L'ha detto bene. L'ho detto con una delicatezza. Per vincere c'è bisogno che ci inventiamo qualcosa, questa è la realtà. No, per governare. Per governare, anche per vincere, insomma. Ma scusi Emiliano. No, bisogna anche portare in Parlamento non solo coloro che si aspettano di essere ricandidati per la seconda volta, coloro che hanno dedicato tutta la loro vita ai partiti, ma dobbiamo portare in Parlamento anche una serie di competenze, di passioni che ben difficilmente si farebbero fregare di nuovo da un partito, per esempio con la scusa di candidarsi come indipendenti o facenti parte della società civile. Cioè lei sta dicendo che non si fidano più la società civile non si fa fregare più tanto dai partiti. No, mi dica però qualche nome che lei vorrebbe in questa lista civica nazionale. Oltre ai sindaci, naturalmente, che già ci sono. Mettere per strada un sacco di gente, però io sono. Vabbè, mi dica un paio di nomi. Il suo sogno. Potrebbe candidare Pino Aprile, che è l'autore di Terroni. Vabbè, Pino Aprile non lo conosce nessuno. Mi dica. Mi piacerebbe. Beh, mica non lo conosce nessuno. No, beh, con tutto il rispetto, per carità. Però. Mi piacerebbe candidare Stella, che ha scritto il libro sulla casta, e lavorare con lui. Anche sul ripristino della bellezza mi piacerebbe candidare anche persone forse sconosciute ai più ma che hanno dedicato la propria vita a cose serie, a cose importanti, questo paese sta in piedi, sì, soprattutto perché c'è un sacco di gente il cui nome è ancora sconosciuto, sì, che sa fare il suo mestiere. Beh, Stella, secondo me non ha nessuna intenzione, eh. Comunque, insomma, a lei lo piace. No, lo so, io ho fatto un esempio, non voglio metterlo. Checco Zalone, ad esempio. Ma che c'entra Checco Zalone adesso, candidato con Emiliano? Non credo. Ma c'è altre cose, si guadagna di più a fare l'attore. Si guadagna di più a fare l'attore. Ma lo vorrebbe un attore anche lei, un uomo di successo, simpatico, che ha reso la Puglia. Ma io non la metterei, diciamo, su questo piano. Credo che la prossima legislatura debba essere anche una legislatura, sì, costituente. Nell'assemblea costituente dice sempre così. C'erano anche delle persone molto giovani, come Aldo Moro, per esempio, che aveva poco più di 20 anni. Sto dormendo. Che dettero un contributo importantissimo. Addirittura l'articolo 1 della Costituzione. Sto dormendo. È stato scritto personalmente da Aldo Moro, la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, è uno di quegli assunti che forse bisognerebbe ricordare a qualcuno, soprattutto in questo momento in cui vogliono cambiare le norme sul lavoro. Sto dormendo, mi sono addormentato già. Io se non dico cattiveria su Bersani, Bersani che c'è. No, guardi, io la prendo molto seriamente questa lista civica nazionale. Voglio sapere che Bersani cosa le ha detto, perché lei ultimamente nei giorni scorsi ha incontrato Bersani, ha detto fermati un attimo, aspettiamo. Come si dice, mi vuole bene, perché il fatto stesso che è stato 2 ore con me a parlare di questa cosa vuol dire che mi vuole bene. In altri tempi mi avrebbe liquidato più rapidamente. Adesso invece godo di una certa rendita di posizione, perché sono l'unico sindaco del PD da Roma in giù, nei capoluoghi. Ma lei è ancora del PD? Questa è la domanda. Ma assolutamente sì, perché il PD senza di me sarebbe una cosa, come posso dire, una cosa ridicola. Mancherei nell'orchestra del PD. Ci vuole sempre una persona che cerca di rompere le scatole, dice qualcuno, ma anche la cadenza di un ragionamento. Che alle senza volte di lei il PD cosa sarebbe? Cosa sarebbe senza di lei il PD? Una noia mortale? Che cosa sarebbe? mi dica. No. Come no? PD, senza un po' di provocazioni fatte in modo fraterno, sarebbe una cosa, devo dire, noiosa e spesso difficile da capire per i cittadini comuni. Cioè, se non ci fosse Emiliano il PD sarebbe noioso. Non credo di essere l'unico, ci sono tantissimi sindaci. Tantissimi. Però scusi un attimo, lei ha detto una cosa nei giorni scorsi, voglio allargare questa lista civica nazionale anche a un'alleanza col terzo polo. Adesso, oggettivamente. No, ho detto che i 3 partiti del centro-sinistra che promuovono questa lista civica per richiamare la politica all'impegno anche persone che non hanno intenzione di fare, non crea nessun problema laddove l'alleanza che ha battuto Berlusconi, che lo ha costretto alle dimissioni, quella che era da Fli a Sel. Ma scusi un attimo, ma com'è possibile avere Fli, Sel, PD, PD, IDV eppure sta lista civica? Nella mia amministrazione sono presenti da Fli a Sel. Tutti quanti, UDC, API, ho capito, però quello a Bari, ma Bari è la capitale del mondo, come voi sapete. La Puglia è una delle regioni in questo momento più interessanti. Ma quello sicuro, però insomma, una cosa è amministrare Bari, dunque fare una cosa è presentarsi alle elezioni. Mi creda, il ruolo che ha avuto nello sconfiggere Berlusconi non può essere sottovalutato. Sì, ho capito, ma questa è la grande ammucchiata. Dopo Monti è tutto, cambia tutto. Non ha capito ancora lei, dopo Monti è tutto cambiato, finisce tutto, caro Emiliano, non c'è più la PD, SEL. Ma perché crede che io sto pensando alla lista civica? Non mi faccia dire più di quel che posso dire. Appunto, dica, perché sta pensando alla lista civica? Perché la lista civica è quello strumento che può portare questo cambiamento, ma bisogna farlo, come posso dire, secondo le regole della Costituzione e soprattutto mandando in Parlamento della gente che si fa eleggere. Se noi volessimo, per esempio, nuovamente Monti Presidente del Consiglio... Lei non lo vuole? No, non ho detto questo. No, come non l'ha detto più volte? Gli dovremmo dare un mandato diverso. Monti, diciamo, con gli indirizzi di Berlusconi in tasca, gli indirizzi di governo di Berlusconi in tasca non funziona per me. In questo momento è troppo succube di Berlusconi? Beh, insomma, voglio dire, l'unica vera liberalizzazione che si doveva fare in Italia, quella delle televisioni, cioè consentire a chiunque di trasmettere liberamente, sbloccando i tetti pubblicitari della RAI. Beh, quella non la farà mai Monti, perché non gliela farà fare mai Berlusconi. 30 secondi, torniamo subito. 30 secondi e torniamo subito. Abbiamo scoperto che Monti è troppo succube di Berlusconi, secondo Michele Emiliano, sindaco di Bari. A tra poco. Mi devo ripetere, però sembra davvero un paese pannellizzato. Questa è la mia frase di oggi, un paese pannellizzato, perché è un paese in cui passa fortuna. Il divorzio breve in prima lettura, insomma, c'è un inizio sul divorzio breve, anche se un po' c'è stata una trattativa, eccetera, eccetera. Comunque è passato il divorzio breve. La Chiesa deve pagare l'ICI alla Chiesa. Emiliano, qui siamo di fronte a una sorta di un cambiamento epocale. Che è successo? Ma non credo che sia un cambiamento epocale, divorziano anche i cattolici e tutti gli italiani in molti casi non vedono la ragione per la quale, quando c'è una situazione pacifica e pacificata, si debba aspettare tre anni, insomma, ecco. Comunque la lista civica dei sindaci, la lista civica nazionale di Emiliano, per mettere insieme, anche per attrarre persone dalla società civile, ecco, io non vorrei che qualcuno si illudesse che io voglia... ho moltissimi fan, però nessuno si illuda che io voglia guidare questa lista. No, lei vuole fare il presidente della Regione Puglia, questo lo sappiamo. Io sono attaccato al mio territorio, al massimo sono disponibile a dare una mano ad organizzarla. No, perché... lei vuole fare il presidente della Regione Puglia, questo vuole fare. Ma non è che, insomma, lo confesso, vorrei fare. Ma questo lo sappiamo ed è anche giusto che lei si candi. Ma io non ho capito una cosa, Emiliano, la lista civica serve un po' per camuffare il fatto che i partiti non hanno un grande attuno. Ecco, ma sono proprio morti questi partiti oggi. Serve a camuffare. Serve a renderlo evidente, siccome c'è gente brava che servirebbe in politica, che non ha più non si fidano dei partiti, iscriversi a un partito, è bene che gli si dia un luogo dove concordare con i partiti un programma, dove ovviamente promettere sulla Costituzione che non si darà vita ad un altro partito, alla fine può succedere. E soprattutto organizzare un luogo nel quale finalmente un po' di sangue vivo possa entrare anche nelle coalizioni di governo. Senta un attimo, però mi spieghi una cosa. Noi vogliamo... la Repubblica è stato costretto, per fare questa operazione, a fare questo governo, a pensare a questo governo. Scusi un attimo, però noi vogliamo nomi. Ci sono fior di magistrati, ci sono professori universitari ancora magistrati. I magistrati sono ovviamente la parte più importante di questo paese, sto ovviamente scherzando, è un'iperbole, però devo anche dire che se non ci fossero stati magistrati in questo paese, neanche il campionato di calcio sarebbe stato regolare. Quindi io sono un convinto assertore dell'utilità della magistratura. Ma chi volete, Ingroia lo vorrebbe? Ingroia nella lista civica nazionale? Non gli posso rovinare la carriera a Ingroia, è a mio amico ed è un magistrato molto importante, non si può scherzare con i nomi di una lista civica. Perché no? Si deve scherzare. Perché domani mattina tutti quanti scriverebbero che io ho candidato alla presidenza del Consiglio in Groglia e gli rovino la carriera. Del Consiglio, semplicemente candidato in questa famosa lista civica. I nomi, io penso che ognuno di noi ha in mente una sua lista di nomi. Me ne dica due o tre importanti, Emiliano. Beh, ho già detto. Ma Gian Antonio Stella e Pino Aprile, vabbè, d'accordo. Ho detto anche voi due, che non è che... Vabbè, ma noi due siamo due poveri stronzi. Noi siamo fuori giochi, siamo due poveri stronzi. Siete simpatici, capaci, molto ben attrezzati sotto l'aspetto culturale. Ma Beltroni e i suoi, scusi un attimo, ovviamente in questa lista civica non ci può rientrare nessuno che viene dai partiti, questo è chiaro. La lista servirebbe a recuperare qualche irrecuperabile. Ma le liste civiche, anche questa lista civica nazionale, anche alle amministrative, alle prossime amministrative si potrebbe presentare? Le amministrative sono tutte ormai automatiche. No, ma la vostra potrebbe presentare anche adesso? Chiari. No, nel senso che nessun presidente di regione o sindaco riuscirebbe a vincere le elezioni solo con le liste di partito. No, ma questo ho capito, ma questa famosa lista civica nazionale che avete in testa, lei, De Magistris, Zed ed altri, potrebbe presentarsi anche a queste prossime elezioni amministrative? No, assolutamente no. È una lista fatta apposta, promossa dai partiti per le politiche, per costruire la nuova Italia, che verrà. La nuova Italia. Ma il PD deve iniziare un po' a tremare a questo punto. Il PD è la boa attorno alla quale questo progetto va costruito. Si dice sempre così. Ma togliete i voti al PD, altro che togliete i voti. Li togliamo soprattutto a quelli che non andranno a votare. Bah. Perché temo che ci sarà un astensionismo mostruoso alle prossime elezioni. Senta, ma Monti lo definisce ancora come Badoglio, lei? Badoglio era una persona che probabilmente in molti casi aveva consigliato il re diversamente, il re non ha mai voluto ascoltarlo e a un certo punto il re, quando ha voluto arrestare Mussolini, lo ha incaricato di formare il nuovo governo. Dunque dopo il 2013 non se ne parla proprio, è finito, dopo un anno basta? No, ma come no? Il successo che sta scuotendo è di tale proporzione che delle due l'una: o è veramente un uomo unico al mondo come Cincinnato e che si ritirerà un minuto dopo la fine del suo compito, oppure sarà convinto, diciamo così, a mettere a disposizione del paese. Scusi, però Emiliano, lei ha detto peste e corna fino all'altro giorno di Monti, sulle politiche di Monti. Ma non ho mai detto peste e corna, ma come perché sono un suo avversario politico. Ho capito, adesso... Credo di volergli bene, di rispettarlo e soprattutto di considerare che il suo governo è un miglioramento incredibile rispetto a quello che c'era prima. Senta, ma Veltroni e i suoi, per esempio, si dice che Veltroni e quelli che fanno riferimento a lui nel Partito Democratico, e non solo loro, il Terzo Polo, vogliono candidare Monti anche per il dopo. Una pessima idea? Beh, credo che sia un'idea legittima, io non la condivido. Io Monti, ecco, probabilmente lo vedrei più come Presidente della Repubblica. Come un arbitro di una partita. Se proprio dovesse avere la necessità di proseguire il suo impegno politico, l'unica cosa che Monti può fare è il Presidente della Repubblica. Non credo che sia candidabile a Premier per la prossima legislatura. Comunque si può dire, lo può dire, no? Il PD è praticamente fallito come esperienza politica, mi dica la verità. Il PD è caduto in mani, come posso dire, molto legate al passato. Molto legate al passato, non hanno avuto capacità di innovazione. Molte di queste persone sono delle bravissime persone, però l'innovazione che era necessaria a questo paese non veniva rappresentata da queste storie nelle quali il PD in qualche modo poi si era. Cioè, Bersani è un uomo del passato, insomma, questa è la sostanza. Non ho detto questo. Beh, sì, dico però che Bersani non è stato sotto questo aspetto innovativo, ancora capace di trasformare il PD nello strumento dell'innovazione italiana. Non c'è ancora arrivato. Uno guarda Bersani e che si fa venire in mente se guarda Bersani il passato, no? Uno lo guarda e dice: questa è una roba vecchia. Siete o no? Inutilmente spietati. No, ma mi dica questa cosa qui. I manifesti di Bersani con scritto rimbocchiamoci le maniche, lei se le rimboccherebbe, ad esempio? Lei dice: cioè, guarda... sulla questione dei manifesti, ho già detto. No, ma guarda Bersani. Guarda Bersani. Ma uno guarda Bersani oggi, che dice: una roba io vecchia. Guardo Bersani, mi viene voglia di abbracciarlo. No, vabbè, non è così. È vero, è la verità. Sì, però come si abbraccia un nonno, come si abbraccia uno un po' vecchiotto. Uno che insomma ma assolutamente no, che come ha fatto... si abbraccia una persona a cui si vuole bene. Sì, però no, ma certo, uno che ha fatto il suo tempo, come dire, ti voglio allora, bene. Posso dire una cosa, io a Bersani da oggi in poi parlerò sinceramente, ma solo con lui, non più in pubblico, perché sennò... Intanto ha detto che è affidato a un partito che si è affidato a gente del passato. Comunque poi vediamo, dopo la pubblicità è una constatazione obiettiva. Beh, anche secondo me, però ci sentiamo tra qualche istante dopo la pubblicità per la conclusione con Emiliano con TGCom 24 naturalmente alle 20:45. Ci siamo svegliati improvvisamente questa sera in un paese pannellizzato con lice alla chiesa e con il divorzio breve. Ma detta così sembra un paese, rendi conto? Eh sì, questo bisogna dire. Io sono diventato dalla critica iniziale una sorta di fan totale del governo. Ma anche io tutto sommato fan tiepido per le cose. Scusi, ma lei non si scandalizza, Emiliano, sindaco di Bari in collegamento con noi, Partito Democratico, per questa cosa degli stipendi dei funzionari pubblici? Cioè, la cosa incredibile del capo della polizia, adesso ci arresteranno, prima Storace ci ha detto: non posso dire niente su Manganelli se no mi arrestano, che guadagna 620.000 euro l'anno. Ma com'è possibile? Io non sono paperista. Vabbè, tutt'altro. Sono degli stipendi che non stanno né in cielo né in terra, sono sproporzionati. Però lei quanto guadagnava da magistrato, scusi Emiliano? Io guadagnavo 7.200 euro al mese per 13 volte nette. Quindi manco male, cioè guadagnava i suoi quattrini, Fare il sindaco, perché il sindaco guadagna io guadagno 5.900 euro per 12 volte. Non mi dica che il solito ritornello che lei ci ha rimesso a fare politica rispetto a prima. Ho rimesso un sacco di soldi, e chiacchiere non ce ne vogliono, che stiamo scherzando. Ah, sicuro, lei ci ha rimesso un sacco di soldi. Ci siamo ancora pagando i debiti dell'ultima campagna. Però lei può tornare a fare il magistrato, si è messo nella classica aspettativa. Sicuramente no? Sì. Però chiedo scusa, io ho fatto una provocazione, ho detto: come mai Monti non liberalizza i tetti pubblicitari della RAI e quindi evita di lasciare a Mediaset l'85% della pubblicità? Questo l'ha detto mentre eravamo in diretta con TGCom 24. Perché, tra l'altro, per esempio, se noi avessimo un mercato pubblicitario televisivo liberalizzato... Ma il problema non è sul tappeto, però, adesso non è che si può fare... Non è sul tappeto, non è che però è una cosa seria. Perché lei dice che è succube di Berlusconi. Invece tassisti e le farmacie è una caricatura. Ma no, veramente non ha fatto manco quello, in realtà. Comunque, insomma... E non è riuscito a fare manco quello. Non è riuscito a fare manco quello. Succube o sotto ricatto per altre cose. Chi ha cambiato idea su Monti? Chi, io? Perché a parte, naturalmente un governo non può fare tutto, come stiamo dicendo, le liberalizzazioni eccetera, però la riforma delle pensioni mi pare una cosa molto buona. Se fanno una buona riforma sul lavoro, non cedendo ai ricatti vari e non cedendo ai partiti, è una cosa meravigliosa. La trasparenza c'è, insomma, voglio dire, in tre mesi sono state fatte delle grandi cose rispetto a quello che si è fatto negli ultimi 10 anni, su questo non c'è dubbio. E poi uno può avere tutte sono tutte cose a senso unico. Però in che senso a senso unico? Si sta, guardi che il suo presidente del consiglio, il suo partito lo appoggia, se ne sta montando un altro perché per esempio sul cambio generazionale, sul tentare di aprire spazi alla nuova generazione, non si è fatto un granché. Ma che significa? Per esempio, si poteva sbloccare il patto di stabilità per le pubbliche amministrazioni e consentire ai giovani italiani di misurarsi nell'avvicendamento di quelli più anziani nell'imparare a governare i comuni, le città. No, le però, scusami, adesso noi siamo tutti fuori. Il patto di cose delle pubbliche amministrazioni, ma che è? Ma nessuno lo sa. I dirigenti della pubblica amministrazione devono imparare a fare, a comandare, a prendere decisioni in età coerente con questo. Vabbè, che voto dà? 50 anni non vanno più da nessuna che parte. Voto dà a Monti, primi 100 giorni, mi dia un voto, 4, 5, 5 e mezzo? 6 e mezzo. Ma come 6 e mezzo? Prima dice che ha sparato a palle incatenate. Prima ha sparato a palle incatenate e poi adesso 6 e mezzo. 6 e mezzo significa che io non mi posso aspettare da Monti una cosa diversa da quella che Monti fa. Cioè è di io destra, Monti è di destra. Ho detto che Monti è Badoglio. È Badoglio e poi pure di destra. In che senso? Non ho mai detto che di destra, ho detto che è della destra finanziaria, per trovare una definizione. Lui ha delle responsabilità uguali a quelle di tutti i banchieri del mondo nel disastro che stiamo vivendo. Ma come è responsabile di darci una mano? Ma è responsabile del disastro? Lì era il consulente di moltissime delle grandi banche che sono andate a pallino e che in buona parte hanno determinato questa. Ma lei sembra Scilipoti quando dice queste cose, la lobby delle... Scilipoti non me lo nomini neanche perché non me lo nomini. Lo so che... Ma non ho capito però perché invece alcuni dirigenti del PD, tipo il vice segretario Letta, sono dei fan sfegatati, cioè non vedono altro che questo governo. Esatto. Non lo so perché, io non ho questa impressione, ho l'impressione che i partiti... soprattutto il nostro, stia subendo il consenso popolare che Monti in qualche modo sta riscuotendo. È tale lo shock degli italiani nel dopo Berlusconi, nel vedere un Presidente del Consiglio che non fa macchiette, che evidentemente, giustamente, per certi versi... Cioè vi sta fregando sto Monti alla fine, no? Io credo sia un fatto temporaneo, poi gli italiani a lungo termine non li frega nessuno. Ma quando è che è un lupo attraverso ma secondo lei il PD quando è che dovrebbe c'è una cosa che magari se il governo fa dovrebbe staccare la spina a Monti, c'è una cosa che non si può accettare. Monti deve, ho capito anche dall'ultima discussione che ho fatto con il dirigente del mio partito che nessuna intenzione di staccare la spina. Cercheranno di portare a termine questa agenda, tenteranno di limitare i danni per la parte che del popolo italiano che il PD naturalmente rappresenta, perché noi rappresentiamo tendenzialmente quelli che contano di meno, e invece Monti che fa, ovviamente di arrivare in un posizionamento decente alle prossime elezioni. Non è facile per il PD questo anno. Non c'è dubbio. Davanti. Allora, le ultime battute di Emiliano sono riservate ad alcune persone. Un giudizio veloce, molto rapido sulla Fornero. Sulla Fornero, subito, rapido, veloce. Sulla Fornero, quando si è messa a piangere, onestamente mi sono un pochino innervosito, perché quando un uomo di governo, una donna di governo, prende una decisione, non può, da questo punto di vista, avere un conflitto di coscienza così violento addirittura da provocare le lacrime. In quel caso quella cosa non l'avrebbe dovuta fare. In ogni caso provocava questo tipo di trauma dentro di lei. Sta andando avanti con i sindacati, dice vabbè io vi sento però poi decido io. Beh, è grandissima questa cosa. Adesso vedo che piange molto meno. Si è abituata. Marchionne? Marchionne è un personaggio di rottura, ho l'impressione che l'abbiamo preso per il verso sbagliato. In molte situazioni non è un rivoluzionario, no? Non lo so se sia un rivoluzionario, lui semplicemente sta tentando di destrutturare vecchi rapporti sindacali all'interno delle grandi fabbriche. Magari naturalmente lo fa con una spietatezza tecnica. Spietato. Non guarda in faccia a nessuno. Spietato, non guarda in faccia a nessuno. Non lo candiderebbe lei? Ma no, che candidare? Ma figuriamo, non lo candiderebbe mai? Ma no, assolutamente no. Io, ecco, guardi, ho l'impressione che Marchionne non riflette abbastanza sull'importanza del sindacato come come presidio di democrazia. Ecco, ma uno come Landini, ce lo vorrebbe lei, Landini nelle liste? Sì, Landini sì, perché adesso io lo conosco bene, è un mio amico e ho una profondissima stima per Landini. Ovviamente Landini nel combattimento con Marchionne per principi, per salvaguardare principi che anch'io considero fondamentali, probabilmente è stato anche rappresentato in un modo grottesco, almeno dalla parte... Però come Landini le piacerebbe, insomma, il mondo sindacale Landini le piace molto, vabbè. Landini è una persona straordinaria anche sotto l'aspetto della sensibilità umana. Dunque, lei, forse per lei andrebbe, tranquillamente alla manifestazione della FIOM senza problemi? Sa che c'è tutta questa discussione nel Partito Democratico, no? Ci andrei assolutamente senza problemi. Ma ci va pure, no? Magari... Io della FIOM mi ricordo Guido Rossa, mi ricordo la lotta al terrorismo, mi ricordo moltissime cose importanti. Dunque il Partito Democratico deve essere vicino. Degli impianti della Fiat quando i tedeschi volevano farli saltare per aria. Il PD deve essere vicino alla FIOM, insomma, non può essere lontano dalla FIOM il Partito Democratico. No, è chiaro che noi dobbiamo stare dalla parte degli operai, possiamo discutere e litigare con gli operai, ma non passare dall'altra parte. Per cui con la FIOM a braccetto. E Veltroni, l'ultima cosa su Veltroni, proprio sulle sue articoli. Avevo creduto totalmente, al punto che io, che ero un antipolitico per definizione, che ero diventato sindaco di Bari con una lista civica, mi sono iscritto al partito e ho accettato di fare il segretario regionale della Puglia. Dopodiché, nel pieno della battaglia, Walter, per ragioni che posso anche capire, si è tolto l'elmo e ha detto basta, io non voglio combattere più. Questa cosa mi ha scioccato. Ma adesso che dice che l'articolo 18 non è un tabù? Abbraccerei anche lui, perché creda, è una persona... sotto l'aspetto personale e politico assolutamente gradevole e importante, però il futuro del PD onestamente non riesco più a vederlo con Veltroni, certo. Cioè ormai non fa più parte del futuro del PD. Questo. Non ho detto che non fa più parte, dico che io ho patito questa esperienza, era il capo, e il capo o si fa ammazzare sul campo di battaglia, ma non molla mai. Che è un codardo. Non ho detto questo, nella tragedia dei comunisti, dei post-comunisti e dei loro rapporti alle volte complicatissimi, Veltroni è stato costretto o si è sentito costretto a dimettersi da segretario del più grande partito della sinistra dopo essere stato eletto da più di 3 milioni di persone. Cioè, oggi non ha più nulla.